In realtà oggi dovevamo inaugurare il mercato nuovo qua in Piazza San Rocco insieme alla Social Street. Cioè, in realtà noi abbiamo ricevuto la bozza del patto di collaborazione da firmare con il comune mercoledì, sotto richiesta nostra, per firmarlo giovedì per poi partire sabato adesso. E io mi sono trovata davanti a un paio di condizioni, uno in particolare, mai discusse, mai cambiate, insomma, così, che era la non chiusura di questa piazza al traffico. Con la motivazione che se vi chiudiamo la piazza al traffico come volete voi, voglio anche ricordare che questo è un progetto e una trattativa che sta andando avanti da 3 anni ormai, letteralmente, quindi dobbiamo applicare il quadruplo della cifra, della tassa del COSAP, perché quando divieti il traffico, quando cambi insomma la viabilità, si applica d'ufficio 4 volte di più della COSAP. Sempre in tutte queste trattative che vanno avanti da là, stiamo in realtà chiedendo una riduzione del 50% della cosa, della cifra base che chiedono per questi spazi, soprattutto nel centro storico, dentro le mura, perché è il doppio di quelli fuori le mura, e questo è insostenibile per un mercato contadino biologico come il nostro. Soprattutto, cioè, noi non ammettiamo neanche la rivendita, quindi abbiamo una vendita più bassa dei nostri, però probabilmente anche, io non penso che sia solo un problema nostro questa cosa, che un mercato contadino biologico in centro a Bologna ha dei costi proibitivi, non sostenibili per i mercati. Non solo la cosa, poi ci sono anche i rifiuti. Noi abbiamo una campagna che va avanti da anni e anni e anni di ridurre, cioè noi vorremmo comunque ridurre i rifiuti a zero, però ci troviamo appunto sempre senza queste agevolazioni che avevamo e abbiamo tuttora nell'altro patto di collaborazione in vigore del 50%, però dietro un impegno preciso. Questo non ci è più riconosciuto con questo nuovo mercato. Questo vuol dire che un mercato a campi aperti paga lo stesso della Montagnola, che non so se è presente come la Montagnola dopo il mercato, e che hanno bisogno dei spazzini, di effettivamente tutto. Allora non ci sembra giusto questa cosa. In più sta venendo fuori, non per questo mercato specifico, che non ci vogliono più agevolare i permessi per entrare in centro, saranno tutti a carico nostro, e bisogna anche cercare un modo per farci entrare più di 3 volte al mese come è permesso nella ZTL normalmente, perché non è mai contemplato. Allora quello che vorremmo chiedere è un cambiamento sistemico dell'atteggiamento dell'amministrazione attuale. Vorremmo delle delibere che cambiano questi regolamenti, tenendo presente la specificità, non so, del mercato contadino biologico, che non è lo stesso del Choco Fest, che non è, abbiamo delle entrate modeste, e però cioè, la nostra ricchezza è più sociale, è più un altro, è più legato a temi come la sovranità alimentare, eccetera. Quindi questo, vorremmo questo riconoscimento in modo che sia possibile continuare a svolgere mercati contadini biologici a Bologna. Insomma, un riconoscimento che non arriva in questo momento dal comune, ma che invece sta arrivando dalla città, nel senso che, per dire, questo mercato è stato voluto dalla Social Street, c'è anche una collaborazione degli esercenti commerciali intorno, quindi ci sono delle risposte in realtà da parte della città. Assolutamente sì, abbiamo tante richieste di aprire mercati a Bologna, però ci troviamo davanti ad un atteggiamento di ambivalenza da parte della giunta attuale. A livello della cittadinanza, a livello, diciamo, dal basso, i mercati di campi aperti vanno benissimo, e appunto abbiamo sempre richieste sia di produttori che vogliono entrare a far parte di campi aperti, sia di quello che chiamiamo coproduttori, quelli che vivono a Bologna, che vengono ai mercati a comprare, di aprirne altri.